Qui a Perugia con una cooperativa in appalto dal comune, circa per 8 mesi adesso, da qualche anno, vengono tenuti in una struttura e fornite delle forme di assistenza alle persone senza tetto come utenti. A maggio di solito scade questo contratto, peccato che il cambiamento climatico non viene minimamente considerato, men che meno la pandemia e il coprifuoco. Perciò allo scadere del contratto si è chiesta una proroga, non ci sono state risposte e gli ex utenti senza tetto si sono ritrovati a dover scegliere se stare per strada rischiando multe e altre forme di violenza, nonché appunto non avere un riparo, o rimanere nel dormitorio e occuparlo, nonostante questo significhi ovviamente una forma di rischio di cui erano perfettamente coscienti, per esempio mettere a repentaglio il proprio documento o altre situazioni legali. Ma purtroppo tra il nulla e l'ancora meno hanno scelto di rimanere nel dormitorio, e questo è iniziato una settimana fa, il 16 maggio di domenica. Una settimana di occupazione, e ovviamente anche solidali si sono prestati appunto a Perugia per, come dire, sostenere la loro battaglia. Assolutamente sì. Allora, siamo un gruppo molto variegato di soggettività. Libere cittadine, così ci siamo presentate alle autorità, e adesso anche su Facebook ci chiamiamo Un Tetto per Chi, scritto KI, che nella lingua Wolof significa lui lei, perché i ragazzi gambiani ce l'hanno insomma raccontato così. Siamo un gruppo di persone che mettono a disposizione il proprio privilegio bianco e o di cittadinanza per poter fare da mediatori, ma non vogliamo oscurare la battaglia di altre persone né farci detentori. Questo è importante, perché altrimenti si rischia sempre di oscurare quelle che sono le lotte degli altri, pensando di farsi da portavoce e poi diventi l'unico visibile. Non è così, insomma, questo è quello che cerchiamo di proprio stare lontani, ecco, spero di essermi spiegata. Certo, ecco, le istituzioni in questa settimana si sono fatte vive? Questo è un punto dolente, nel senso che di questa mattina, guarda, ho letto adesso che è uscito un articolo dell'assessora della Lega che ha detto delle cose proprio totalmente false sul fatto che stanno provando a trovare delle sistemazioni, ma non c'è un'intenzione di accordarsi dall'altra parte. Ma l'altra parte sono delle persone autentiche spostate ai confini della città e hanno delle forme di disabilità per cui non riescono neanche a prendere l'autobus per prendere del cibo. Le lasciano senza cibo, gli dicono ti spostiamo per 5 giorni, poi dopo rifinisci in strada. La cooperativa che prima aveva appunto in appalto è scomparsa. È una situazione grottesca. Continuano a sostenere che il loro obiettivo è trovare una sistemazione quando fondamentalmente vogliono uno sgombero senza clamore. Non so, purtroppo è questo. Addirittura si sono accordati i vigili all'inizio perché se i liberi cittadini fornivano loro il cibo, allora non li sgomberavano. Poi arrivano a mezzanotte e chiedono chi sono le persone senza documenti che vogliono sgomberare, e purtroppo non si riesce ad avere visibilità. Io ho provato a contattare chiunque, anzi vi ringrazio per questa intervista, perché purtroppo non aspettano altro che passi il tempo a sufficienza per rimetterli in strada appena passa la visibilità mediatica. Certo, ecco, immagino che anche a Perugia la pandemia di certo non abbia risolto il problema abitativo. No, la pandemia ha peggiorato, a mio avviso, questo a titolo personale, ma penso che sia una riflessione che può essere di spunto comune, la pandemia ha inasprito quelle che sono le differenze tra persone che hanno delle forme di cittadinanza, di sicurezza, di benessere e le persone che hanno meno. La solita guerra tra i poveri ha oscurato ancora di più quelle che sono le necessità di soggettività che magari una casa non ce l'hanno. Ti dicono stai a casa, sì, ma se io la casa non ce l'ho, torna a casa, bisogna stare distanti, bisogna usare delle misure di protezione. Sì, ma se io non ho neanche i soldi per la mascherina, cioè con che coraggio? Quindi questa pandemia fatta solo per i bianchi, per i cittadini, per le persone che hanno una casa, che si possono spostare con il proprio mezzo di trasporto, penso che sia evidente quello che stanno facendo. Non è solo repressiva, è anche fortemente divisoria e sempre a scapito di qualcun altro, purtroppo. Ecco, le persone che stanno occupando cosa chiedono in sostanza? Le persone che stanno occupando chiedono un tetto tutto l'anno a prescindere dalle condizioni meteorologiche, perché ovviamente non è che se fa più caldo allora dormire in strada è più sicuro o è più conveniente, delle forme di assistenza e di cura a seconda delle necessità specifiche di ognuno. Adesso io l'ho detta un pochino più complicata, ma il succo è che ci sono delle persone che hanno delle forme di dipendenza, altre che hanno delle forme di disabilità, e sarebbe corretto e giusto che ognuno possa avere a seconda delle proprie necessità il minimo indispensabile per poi riuscire a trovare, loro dicono, anche delle forme di autosostentamento, perché la rete storica del mangio a spese altrui non è che l'hanno assorbita, la rigettano dicendo no, io voglio poter poi essere autonomo, non voglio campare sulle spalle degli altri, però se non ho neanche un tetto e non posso avere un documento è un po' difficile. Certo. Questo è il senso.